Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari ascoltatori, a tutti voi un vivo saluto e ogni benedizione nel Signore. Ci ritroviamo per continuare il nostro percorso di approfondimento degli Atti degli Apostoli. Siamo arrivati nel nostro itinerario di Lectio Continua al capitolo 5 di questo stupendo libro dell'Evangelista Luca, in cui ci vengono ricostruiti e narrati i primi istanti della storia della Chiesa. Allora invito quanti di voi sono nella possibilità di farlo, di prendere in mano un'edizione della Bibbia e dei Vangeli e di aprirlo proprio su questo capitolo, in modo da seguire insieme a me la lettura e il commento di questo testo. Ringrazio fin d'ora quanti sono in ascolto dopo una giornata di lavoro, quanti sono in viaggio e soprattutto coloro che nelle case, negli ospedali, offrono i loro momenti di preghiera e di sofferenza e si uniscono alla nostra comunità radunata attorno alla parola di Dio. L'essere comunità attorno alla parola rende tutti discepoli di quell'unica parola e rende fecondo anche questo momento di riflessione condivisa. Ricordo sempre che la nostra riflessione si snoda in due momenti che sono entrambi importanti. Il primo momento sono degli spunti di riflessione che suggerisco io. Il secondo momento, gli altri 45 minuti, sono invece le domande che vengono da voi, domande sempre preziose, perché è grazie a queste domande che a volte è possibile scavare, illuminare alcuni passaggi che altrimenti resterebbero in un certo senso nascosti. È anche il momento eventuale di brevi condivisioni, brevi riflessioni da parte vostra, in modo che davvero la nostra sia una comunità raccolta attorno alla parola di Dio. La volta scorsa ci siamo soffermati sull'episodio di Anania e Saffira, un momento molto delicato nella storia della prima comunità cristiana, quando il peccato di questa coppia viene presentato, descritto da Luca, come una sorta di peccato originale della prima comunità cristiana. È il momento in cui l'ideale tanto narrato del cuor solo e dell'anima sola viene in un certo senso a infrangersi. Dopo questo episodio Luca racconta come praticamente il seme della prima comunità cristiana comincia a diffondersi all'interno di Gerusalemme, poi della Giudea, poi oltre i confini della Giudea in Samaria e anche in territorio pagano. E tutta questa diffusione è caratterizzata da un lato dall'entusiasmo della corsa della parola di Dio, dall'altro però è segnato da un'ombra, che è l'ombra della croce, quel mistero che nella festa di ieri, la festa dell'esaltazione della croce, abbiamo insieme meditato e contemplato. Quindi oggi penso che riusciremo a ripercorrere tutto il capitolo 5, dal versetto 12 in poi, in modo da ultimare questa pagina, questo capitolo degli Atti degli Apostoli, dove ci viene delineata anche la caratteristica della fecondità della parola di Dio, come l'annuncio della parola può rendersi fecondo. Iniziamo subito leggendo la prima parte del brano, vale a dire i versetti da 12 a 16, dove ci viene presentato come è la comunità cristiana all'indomani del peccato di Anania e Saffira. Per mano degli apostoli avvenivano molti segni e prodigi tra il popolo, e tutti erano soliti stare insieme nel portico di Salomone. Nessuno degli altri osava avvicinarsi a loro, ma il popolo li elogiava, e venivano aggregati sempre nuovi credenti nel Signore, una moltitudine di uomini e di donne, tanto che portavano perfino sulle piazze gli infermi e li ponevano su lettini e barelle, perché quando Pietro passava, almeno l'ombra coprisse qualcuno di loro. Anche la moltitudine dei centri vicini a Gerusalemme accorreva, portando gli infermi e quanti erano tormentati da spiriti immondi, e questi venivano tutti guariti. Allora, questa è la prima immagine che ci viene data della comunità cristiana dopo il peccato delle origini della comunità cristiana. Tutto viene focalizzato su Gerusalemme. La prima comunità cristiana trova il suo punto di riferimento nel Tempio di Gerusalemme, luogo massimo dell'identità ebraica. Lì si ritrovano, viene detto dall'Evangelista Luca, sotto il portico di Salomone, in un contesto dove tutti ascoltano la parola degli apostoli e nello stesso tempo, oltre a chi ascolta la parola degli apostoli ed è già membro della comunità cristiana, ci sono altri che si affacciano su questa esperienza. Allora, notiamo subito che l'attenzione da parte del narratore, dell'evangelista, è mettere al centro il luogo dell'identità. Il Tempio, luogo dell'identità ebraica, continua ad essere il punto di riferimento e di ritrovo per la prima comunità cristiana, almeno in questa prima pagina di vita. Poi vedremo che con l'arrivo dell'Apostolo Paolo le cose cambieranno in modo sostanziale, perché il Tempio non sarà più il punto di riferimento. All'interno del Tempio il luogo scelto è il Portico di Salomone. Il Portico di Salomone è noto nella tradizione del tempo come il luogo dove si ritrovavano le diverse scuole religiose del tempo, i diversi maestri delle correnti farisaiche si ritrovavano lì con i loro discepoli. Quindi probabilmente questo gruppo che predicava nel nome di Gesù era considerato come un gruppo nuovo, che faceva parte delle diverse correnti, molto in fermento nel primo secolo, che si radunavano attorno ai loro maestri. E di fronte a questo gruppo nuovo si notano due atteggiamenti diversi. Da un lato c'è l'atteggiamento di chi li elogia e quindi aumenta il numero delle persone che vengono aggregate, dall'altro però c'è anche un senso di timore e di paura. Per cui l'evangelista sembra quasi, come dire, contraddirsi, perché da un lato dice che nessuno degli altri osava avvicinarsi a loro, ma dall'altro dice che venivano aggregati sempre nuovi credenti. Cioè c'è questo duplice atteggiamento. L'episodio che aveva toccato Anania e Saffira e che aveva portato alla morte improvvisa di questi due responsabili di comunità ha suscitato degli interrogativi all'interno della prima comunità. Per cui la prima comunità dice: ma che cosa Dio ci vuole dire attraverso questa esperienza che è successa all'interno della prima comunità? Dio ovviamente voleva dire che la comunità, la prima comunità cristiana era pienamente nelle sue mani, che era guidata dalla sua volontà, e quindi chi era investito di un ruolo di responsabilità lo doveva vivere con un certo atteggiamento, e anche chi si inseriva all'interno del cammino comunitario. Ecco allora questo senso di timore che comincia ad abitare all'interno dei primi cristiani, un senso di timore che Luca vede con un atteggiamento positivo. Il timore è necessario per non prendere troppo alla leggera quello che è il cammino di fede. Ed è interessante che all'interno di questo cammino comunitario emerge la figura di riferimento. La figura di riferimento è Pietro. La fotografia che Luca dà di Pietro in questa pagina è come se Pietro fosse una sorta di nuovo Mosè. Perché? Se voi ricordate, al momento stesso della chiamata di Mosè sul monte Horeb, Mosè viene invitato ad avere il senso di timore nell'accostarsi a Dio. Quando si accosta al roveto ardente, la voce gli dice: togliti i sandali, perché il terreno su cui tu stai è terra sacra, perché è abitata da Dio. Questa è un pochino l'esperienza che i primi cristiani fanno, quel senso di timore, di paura che provano è quasi un invito a togliere i calzari. E nello stesso tempo c'è questo accorrere per stare sotto la sua ombra, che richiama il cammino anche qua del popolo nel deserto, dove una nube luminosa li guidava di notte e una nube che faceva ombra li proteggeva di giorno dalla calura del sole, orientandoli verso il cammino insidioso del deserto. Ecco, Pietro ha questo compito. Pietro da un lato richiama il mistero di Dio, che è un mistero che invita a togliere i calzari dai piedi, dall'altro richiama quella nube luminosa, colui che guida la comunità cristiana. Non solo, ma c'è anche un accorrere a lui, la gente che stende quasi davanti a lui tutti i propri mali, tutti i propri disagi, per cui malati, infermi, spiriti immondi vengono sanati, guariti, cacciati. Interessante, nella figura di Pietro troviamo gli elementi che caratterizzano la guida di una comunità e quindi troviamo, come dire, quegli ingredienti che fanno una buona guida di comunità, un buon pastore, un buon padre di famiglia. E gli ingredienti sono questi: tenere vivo il senso del timore nei confronti di Dio, il senso del rispetto nei confronti di un mistero che ci sovrasta, il primo elemento. Secondo elemento è avere particolare attenzione per tutti quelli che sono gli elementi più deboli della comunità, quindi sapendo accogliere chi è debole, infermo, provato dallo spirito immondo. Terzo punto di riferimento, essere una sorta di ombra che porta, che protegge dalla calura del sole e indica il cammino. Pietro è tutto questo, Pietro è tutto questo nella prima comunità cristiana, quindi l'esperienza della prima comunità cristiana ruota attorno al vivo incontro che alcuni, in questo caso Pietro e gli altri apostoli, hanno avuto del Cristo. Senza questa esperienza primigenia la comunità cristiana non potrebbe camminare. Ora è curioso però che tutto questo avviene nel Tempio, laddove tutti i credenti dell'ebraismo del primo secolo accorrono per fare esperienza di Dio attraverso l'incontro con le classi sacerdotali. Praticamente succede che fanno esperienza di Dio nell'incontro con una realtà nuova, che è la realtà della prima comunità cristiana. Ora, questa sottolineatura sarà quella che provoca la reazione delle classi sacerdotali, ed è proprio quello che ci racconta il seguito della narrazione. Allora, ascoltiamo anche i versetti che seguono, vale a dire i versetti dal 17 al 26, dove viene delineata la reazione di un gruppo all'interno della realtà storica dell'ebraismo del primo secolo. Il sommo sacerdote e tutti quelli che erano con lui, cioè la setta dei Sadducei, pieni di gelosia, afferrarono gli apostoli e li misero in una prigione pubblica. Di notte però un angelo del Signore aprì le porte del carcere, li fece uscire dalla prigione e ordinò loro: andate e in piedi annunciate al popolo nel Tempio tutto ciò che concerne questa vita. Udito ciò, entrarono di buon mattino nel Tempio e si misero a insegnare. Sopraggiunti intanto il sommo sacerdote e tutti coloro che erano con lui, convocarono il Sinedrio e tutto il Senato dei figli di Israele, e mandarono alcuni nel carcere per prelevarli. Ma i funzionari arrivati nella prigione non li trovarono. Tornarono e riferirono: abbiamo trovato il carcere chiuso con tutta sicurezza e le guardie in piedi alle porte. Abbiamo aperto e dentro non abbiamo trovato nessuno. All'udire ciò il prefetto del Tempio e i sommi sacerdoti si chiedevano perplessi tra loro cosa significasse tutto ciò. Ma si presentò un tale che riferì: ecco, coloro che erano in carcere sono nel Tempio, in piedi, a insegnare al popolo. Allora il prefetto del Tempio uscì con i servi e li condusse via, ma non con la forza, perché temevano di essere lapidati dal popolo. Allora, notate, di fronte all'annuncio vitale della prima comunità cristiana, e ribadisco, l'annuncio vitale della prima comunità cristiana, una comunità, se è autenticamente cristiana, non può essere un seme smorto, una presenza piatta, una realtà sbiadita. Non può essere questo. Se è abitata dalla vita è una realtà vitale, è una realtà vitale che fa rumore, che si sente, che si nota, che risplende. E Gesù spesso dice: voi siete la luce del mondo, voi siete il sale della terra. Quindi luce e sale. La prima comunità cristiana emerge con queste due caratteristiche e Pietro, che ne è la guida, è il fermento di questa comunità. Ora, di fronte a questo è chiaro che diventa un elemento di disturbo. E la prima reazione negativa che proietta subito l'ombra della croce sulla prima comunità cristiana, e questo non lo dobbiamo dimenticare mai, non c'è comunità cristiana che non che sia esente dall'ombra della croce, fa parte dell'identità del cristiano, il mistero della croce, una croce trasfigurata dall'amore, è proprio per questo che può essere esaltata, ma sempre segnata dalla presenza della croce. Quindi la prima reazione avviene da chi? Avviene dalle classi sacerdotali. Teniamo presente, non sono le classi farisaiche, sono due grandi gruppi. I grandi gruppi religiosi del primo secolo. Ci sono da un lato i sadducei, cioè le classi sacerdotali, dall'altro i farisei, che sono invece classi laiche, dedite più alle dimensioni spirituali di studio della Torah. Ora, le classi farisaiche sono molto rispettosi inizialmente dell'annuncio cristiano, perché lo vedono come un fermento all'interno della tradizione ebraica. Le classi sacerdotali invece sono le prime ad essere urtate. E sono le prime ad essere urtate perché? Perché gli apostoli, con la loro presenza nel Tempio, sotto il portico di Salomone, stanno portando via l'autorevolezza delle classi sacerdotali. Deputate all'incontro con Dio sono le classi sacerdotali del Tempio, non un gruppo nuovo che attira tutta l'attenzione non solo degli abitanti di Gerusalemme, ma anche di quei centri vicini che accorrevano portando gli infermi e quanti erano tormentati da spiriti immondi. Ovviamente questo dà fastidio. Quindi intervengono pieni di gelosia, imprigionano, mettono in prigione, poi vedremo quali sono i capi di accusa, mettono in prigione gli apostoli. Ora è interessante di fronte a questa scena vedere il mandato che gli apostoli ricevono, perché dietro questo mandato c'è il mandato che viene dato a ciascuno di noi, è il mandato della comunità cristiana. Il testo dice al versetto 18, no? Di notte un angelo del Signore aprì le porte del carcere, li fece uscire dalla prigione e ordinò loro: andate e in piedi annunciate al popolo nel Tempio tutto ciò che concerne questa vita. Primo elemento. Di notte, lo ripeto, di notte. Facciamo entrare dentro di noi questa espressione. Il Signore, alla comunità cristiana, affida un mistero che è legato alla notte. Provate a pensare ai diversi momenti di quella che è la rivelazione cristiana. Il mistero dell'incarnazione, visibile, che si rende visibile, avviene nel cuore della notte. Il mistero della risurrezione avviene nel cuore della notte. Il mistero della missione avviene in quella preghiera notturna di Gesù sul monte, quando poi indica ai discepoli sul lago di Tiberiade che faticano a remare di andare all'altra riva. E ancora qua, di notte, gli apostoli ricevono il primo grande mandato ufficiale, corroborato dalla presenza di un angelo. Cosa sta dietro l'immagine della notte? Dietro l'immagine della notte c'è sicuramente l'esperienza della sofferenza, l'esperienza della fragilità, l'esperienza dell'impotenza di questi apostoli chiusi in prigione, l'esperienza di una vita che è a rischio. Ora, tutti questi momenti, dice il testo, ce lo sta comunicando la buona novella del Nuovo Testamento, la buona notizia del Nuovo Testamento, tutti questi momenti, se abitati da Dio, possono diventare un grande spazio di annuncio. Ecco allora che la sofferenza, il dolore, la fragilità, l'impotenza, situazioni che potrebbero essere chiamate situazioni limite, situazioni di grande fragilità, di grande insicurezza, vissute insieme al Signore, possono diventare lo slancio del vero annuncio. E l'angelo dice di notte: andate e in piedi, la posizione in piedi non è solo la posizione degli oratori, va bene? Questo è chiaro, lo troviamo nelle note di tante Bibbie, è in piedi perché è la posizione degli oratori, ma non è solo la posizione degli oratori, in piedi è la posizione del risorto, di chi partecipa all'autorevolezza del risorto, molto di più, molto di più. Andate in piedi, annunciate al popolo nel Tempio, proprio nel luogo che è il luogo dove la vostra vita è più a rischio, tutto ciò che concerne questa vita. Notate, l'angelo non dice andate e parlate di Gesù, non dice andate e insegnate i 10 comandamenti o le beatitudini, ma tutto ciò che concerne questa vita. La comunità porta un'esperienza di vita, è la vitalità che abita dentro questi fratelli e sorelle della prima ora, la vita che scorre, la vita che semina germi nuovi, germogli nuovi, si è portatori di vita. E questa è una grande provocazione per noi, no? Perché l'invito che viene fatto a Pietro e agli Apostoli viene fatto a noi, in piedi, come dire, l'orgoglio sano di essere cristiani, annunciare nel Tempio, a partire dal luogo dove c'è la custodia dell'esperienza di Dio. Il Tempio è luogo di memoria e di profezia allo stesso tempo, di preghiere e di rilancio della vita quotidiana, è da lì che parte l'annuncio, ma soprattutto la vita, sentire la vita scorrere dentro di sé. Ecco, in questo invito che l'angelo fa agli apostoli sembra quasi riecheggiare l'esperienza del profeta Geremia. Sapete un po' qual è la storia di questo profeta? Il profeta Geremia apparteneva a una classe sacerdotale decaduta, potremmo addirittura dire, mettendolo tra virgolette, a una classe sacerdotale maledetta, a una dinastia che non poteva accedere al Tempio, perché era considerata abbandonata, umiliata da Dio. Ora, Dio lo sceglie e quando lo sceglie gli dice: tu sali alla porta del Tempio, ovviamente non gli dice di entrare perché Geremia non poteva entrare nel Tempio, sali alla porta del Tempio e annuncia il mio messaggio di vita, lì sulla porta del Tempio dove tutti possono anche mettere a rischio la tua vita, e denuncia che il loro rapporto con il Tempio è fasullo. Loro dicono Tempio del Signore, Tempio del Signore, Tempio del Signore è questo, ma lo hanno trasformato in una spelonca di ladri. E Geremia si alza e va lì, consapevole di avere dentro di sé una parola di vita. Lo dirà in una delle sue confessioni, che l'amore di Dio mi sconvolge, vorrei trattenerlo perché mi fa male, perché produce dolore alla mia vita, ma non posso. E la tua parola è diventata motivo di vergogna e di dolore per me, no? E arriva persino a maledire il giorno della sua nascita, per come questa parola lo ha travolto, per come questa vita lo ha circondato. Stessa esperienza di Geremia viene ora chiesta agli apostoli, che udito ciò escono dalla prigione ed entrano di buon mattino nel Tempio e si mettono a insegnare. Ed è Luca fa quasi un'ironia, perché da un lato vediamo gli apostoli in piedi nel Tempio che annunciano, dall'altro vediamo questi sacerdoti che dovrebbero essere nel Tempio, che sono da un'altra parte, collegati con delle guardie in piedi a custodire una prigione vuota e a portare dentro di sé pensieri di morte. Quindi capite bene l'ironia lucana. I sacerdoti, che dovrebbero essere coloro che guidano il popolo e fanno fare esperienza di vita, pensano alla morte, sono in colluttazione con delle guardie in piedi che custodiscono prigionieri, prigioni vuote, e alla fine restano spaesate. Dall'altra invece quelli che dovrebbero essere in prigione sono nel tempio, in piedi, a portare un annuncio di vita. Ed è bellissima un po' la conclusione di questa scena, quando dice, all'udire ciò, quando vengono a sapere che loro sono nel tempio ad annunciare, all'udire ciò, il prefetto del tempio, insomma i sacerdoti, si chiedevano perplessi tra loro cosa significasse tutto ciò, dove questa cosa sarebbe andata a finire. Ecco, il Dio che si presenta in questa pagina è un Dio non solo che porta vita e libertà, ma è un Dio che pone quesiti e che chiede discernimento attraverso i fatti quotidiani. Quindi è un Dio rispettoso anche delle classi sacerdotali, ma che le provoca, suscitando interrogativi. A volte, ecco, noi abbiamo in testa una visione di comunità cristiana che dà risposte. E invece l'immagine che traspare da queste prime pagine degli Atti degli Apostoli è più una comunità cristiana che sa ascoltare le domande che vengono da Dio e che cerca invece piuttosto di fare discernimento attraverso i fatti della vita quotidiana. Ecco, cari ascoltatori, proviamo adesso a fare un breve stacco musicale. In questo breve stacco musicale vi chiedo, per chi ha la possibilità, di rileggere un attimo questi versetti prima di continuare nella nostra riflessione, quindi di rileggere i versetti dal 12 fino al 26 prima di continuare con gli altri due momenti della narrazione. Quindi un breve stacco musicale e poi riprendiamo la nostra riflessione. Dopo quindi aver ascoltato un po' lo svolgimento di questa scena, abbiamo visto appunto il radunarsi della prima comunità cristiana all'interno del Tempio, poi abbiamo visto cosa questo ha suscitato nelle classi sacerdotali e Luca descrive questo proprio mettendo in opposizione gli apostoli come custodi, annunciatori di vita e i sommi sacerdoti che sono invece custodi di prigioni vuote e ideatori di morte. Adesso il racconto continua presentando l'accusa delle classi sacerdotali e la difesa degli apostoli. Allora ascoltiamo i versetti che vanno dal 27 al 32. Li condussero e li presentarono nel Sinedrio. Il sommo sacerdote li interrogò. Vi abbiamo formalmente comandato di non insegnare in questo nome. Ed ecco, voi avete riempito Gerusalemme del vostro insegnamento e volete renderci responsabili della morte di quell'uomo. Ma Pietro e gli apostoli replicarono: bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avete ucciso appendendolo a un legno. Dio lo ha esaltato alla sua destra come primo e salvatore, per offrire a Israele la conversione e il perdono dei peccati. Di questo noi siamo fatti testimoni e lo Spirito Santo che Dio ha concesso a quanti gli obbediscono. Allora, notiamo che nel momento in cui riescono a riprendere gli apostoli e portarli all'interno del Sinedrio, l'accusa del sommo sacerdote è chiara. Il testo dice li interrogò, ma in fondo agli apostoli non viene fatta nessuna domanda, non c'è un vero processo. Come il giorno prima sono messi in prigione senza averli ascoltati, anche qua non vengono poste domande per capire ciò che gli apostoli stanno vivendo. Ma vengono dati dei capi di accusa, viene fatto un giudizio su di loro. E il capo di accusa è quadruplice. Viene detto, vi abbiamo formalmente comandato di non insegnare in questo nome. Quindi il primo capo di accusa: stanno insegnando nel nome di una persona, nel nome di Gesù. Quindi mettendo questa persona al centro dell'attenzione, quindi Primo capo di accusa è: insegnano nel nome di Gesù. Secondo capo d'accusa: voi avete riempito Gerusalemme del vostro insegnamento. Stanno riempendo la città di un insegnamento che è diverso, evidentemente, da quello dei sommi sacerdoti. Cioè, i sommi sacerdoti ritengono che l'insegnamento portato dagli apostoli devii il popolo dalla rettitudine dell'ebraismo. Terzo aspetto: volete renderci responsabili della morte. Quindi, terzo capo di accusa, voi ci accusate di essere responsabili della morte di Gesù. Terzo, della morte di quell'uomo. Per loro Gesù non è nient'altro che un uomo che è stato ucciso su una croce con l'accusa di essere maledetto da Dio e di voler pretendere il titolo regale. Ora, di fronte a questa accusa così delineata, come Pietro e gli apostoli replicano? Pietro e gli apostoli replicano in un modo molto chiaro, molto lineare. Prima di tutto, la prima accusa era: voi insegnate in questo nome, di insegnare nel nome di Gesù. E Pietro e gli apostoli rispondono dicendo: noi non ci limitiamo a insegnare, noi testimoniamo insieme allo Spirito Santo che Dio ha concesso a quanti gli obbediscono. Quindi non si tratta di un insegnamento, non è una teoria quella che gli apostoli portano, è una testimonianza di vita. Il Cristo che loro portano non è una filosofia, non è, come dire, un retore in più che porta degli insegnamenti. No, il Gesù che loro portano è vivo dentro di loro, grazie all'azione dello Spirito. Quindi quello che loro portano è la testimonianza di un Gesù ancora vivo in mezzo ai suoi, in mezzo alla comunità. Ecco perché avvengono miracoli, prodigi, non perché gli apostoli sono bravi, ma perché Cristo è vivo in mezzo a loro. E questo è interessante, anche noi nella nostra tradizione, la tradizione cattolica, c'è una visione stupenda di Chiesa che non si limita alla Chiesa terrestre, no? Si estende, abbraccia anche sia la Chiesa che è in cammino verso la vita eterna, sia la Chiesa trionfante, fatta di beati, di santi. Chi sono tutte queste persone? Non sono degli eroi personali, sono delle persone che hanno saputo far vivere il Cristo dentro di loro. E quando si prega un santo, un beato, si chiede che questa esperienza che loro hanno vissuto viva dentro di noi, cioè diventano in un certo senso degli emblemi che la conformazione a Cristo è possibile. Quindi alla prima accusa rispondono in modo chiaro: noi non portiamo un insegnamento, una dottrina, non potete venire ad accusarci di portare una dottrina, quello che noi portiamo è un Cristo vivo. Secondo capo di accusa: voi avete riempito Gerusalemme del vostro insegnamento. E loro rispondono dicendo: no, non abbiamo riempito Gerusalemme, siamo stati incaricati di annunciare a Israele la conversione e il perdono dei peccati. Quindi nient'altro, quello che noi annunciamo è un messaggio di misericordia. E la misericordia implica sempre due parti: il perdono da parte di Dio, la conversione da parte dell'uomo. La misericordia chiede l'incontro tra due partner, e da una parte c'è la conversione, dall'altra il perdono. Quindi l'insegnamento inteso come un elenco di cose da fare, da rispettare, da memorizzare, deve lasciare il passo a un'esperienza di vita, Terzo capo di accusa era: volete renderci responsabili della morte di Gesù. E su questo Pietro e gli apostoli dicono chiaramente: voi l'avete ucciso appendendolo al legno. Questo Pietro e gli apostoli non lo dicono per, come dire, calcare la mano sulla responsabilità di chi ha messo a morte Gesù. La narrazione dei Vangeli è molto chiara. Nella morte di Gesù c'è una responsabilità a 360 gradi che non coinvolge solo le autorità religiose. Da un lato ci sono le autorità religiose, dall'altro ci sono le autorità politiche, ma dall'altro ci sono anche i credenti. Non dimentichiamo i discepoli. Non dimentichiamo che i discepoli hanno tagliato la corda, nessuno ha alzato la voce per difendere il loro maestro. Nel mistero della morte di Gesù sono coinvolti tutti, non è che il capo di accusa è su un gruppo particolare. E quando Pietro dice voi avete ucciso appendendolo alla croce, non lo fa per girare il coltello nella piaga, ma per suscitare un cammino di conversione. E poi, quarto elemento di accusa, la morte di quell'uomo. E Pietro risponde dicendo, no, si tratta di un uomo. Dio ha esaltato alla sua destra non un uomo, ma l'archegos è il termine greco utilizzato, l'archegos è il primo, cioè viene tradotto nei testi in diversi modi, la versione CEI traduce questo termine archegos come capo, altri lo traducono come guida, la traduzione letterale sarebbe il primo, cioè il primo modello di uomo creato nell'immagine, somiglianza piena di Dio, come incarnazione stessa di Dio, è il Cristo alla sua destra, è il primogenito tra tutti i credenti. E poi, non solo primo, ma salvatore, anche questo termine è molto forte ed è la prima volta che viene utilizzato in tutto il Nuovo Testamento. Da qui nascerà poi proprio il titolo di Salvatore, quindi colui che porta la salvezza di Dio, incarna la salvezza di Dio nel mondo. Quindi vengono dati qui dei titoli fortissimi che rappresentano non solo il fatto che in Gesù i primi apostoli riconoscono la pienezza del Messia, ma vedono in Gesù l'incarnazione stessa di Dio sulla terra, il primo e il Salvatore, per offrire a Israele la conversione e il perdono dei peccati. E allora capiamo che tra l'uno e l'altro, tra l'accusa e la difesa, si stabilisce subito un dialogo molto schietto. Di fronte alla risposta di Pietro, i sommi sacerdoti e le classi sacerdotali sono messe con le spalle al muro, perché capiscono, sono obbligate a rendersi conto che c'è un mistero che supera la prigionia di questo gruppo. C'è un mistero che supera la prigionia di questo gruppo. Non si tratta di una dottrina, non si tratta di un insegnamento, si tratta di un'esperienza che rende vivo quel Cristo che è stato messo a morte sulla croce, e si rendono conto che è qualcosa di molto più forte di una realtà che uno può chiudere in una prigionia o biasimare di fronte al popolo. E arriviamo alla conclusione del brano. Il brano si conclude nei versetti 33-42, dove notiamo che di fronte alle parole di Pietro e degli apostoli, i sommi sacerdoti hanno una reazione molto forte. Ascoltiamo il testo. All'udire queste parole, quelli si esasperarono e volevano ucciderli, ma si alzò uno nel Sinedrio, un fariseo di nome Gamaliel, dottore della legge stimato da tutto il popolo. Ordinò di far uscire per un momento quegli uomini, poi disse loro, «Israeliti, state bene attenti a ciò che state per fare a questi uomini». Tempo fa, infatti, sorse Teuda, dicendo di essere un personaggio importante, e aderirono a lui circa 400 persone. Fu ucciso e tutti coloro che gli avevano creduto furono dispersi e ridotti a nulla. Dopo di lui sorse Giuda, il Galileo, nei giorni del censimento, e trascinò dietro a sé una folla. Ma anche egli morì, e tutti coloro che gli avevano creduto furono dispersi. Vi consiglio pertanto di non occuparvi di questi uomini e di lasciarli andare, perché se questo disegno e quest'opera viene dagli uomini sarà distrutta. Ma se viene da Dio non potrete distruggerli. Non vi accada di trovarvi a lottare contro Dio. Seguirono il suo consiglio e, chiamati gli apostoli, dopo averli fatti percuotere, proibirono loro di parlare nel nome di Gesù. Poi li rilasciarono. Essi dunque se ne andarono dal Sinedrio, lieti di essere stati trovati degni di soffrire per il nome di Gesù. E ogni giorno, nel Tempio e di casa in casa, annunciavano la buona notizia che Gesù è il Cristo, che Gesù è il Messia. Allora, notiamo subito che di fronte alla difesa degli apostoli, i sacerdoti hanno la reazione tipica di chi non vuol sentire. Si esasperarono e volevano ucciderli. Succede spesso quando uno dà fastidio, la prima cosa da fare è metterlo fuori scena. Quindi c'è l'esasperazione ogni volta che lo si ascolta, fino a che viene il desiderio proprio di sbatterlo più lontano possibile, lontano dall'orizzonte in cui quello vive. Ora, di fronte a questa esasperazione interviene un membro del Sinedrio, attenzione, non appartiene alle classi sacerdotali, appartiene al gruppo dei farisei, Gamaliel. Gamaliel, lo sappiamo dalla tradizione ebraica, è stato uno dei grandi maestri del primo secolo, non dimentichiamo, noi dai Vangeli rischiamo a volte di avere magari una visione esclusivamente negativa dei farisei, dire fariseo è diventato sinonimo di ipocrita, ma dalle testimonianze storiche che abbiamo noi sappiamo che tra le classi farisaiche c'erano delle persone molto sagge, molto sante. Tra queste uno era Gamaliel, apparteneva a una delle scuole rabbiniche del tempo, una scuola rabbinica moderata, che era quella di Hillel, e fu il primo a ricevere il titolo onorifico di Rabban, cioè nostro maestro, grande maestro, e svolse la sua attività tra il 25 e il 50 d.C. Questo Gamaliel, tra l'altro, viene menzionato negli Atti degli Apostoli dallo stesso Apostolo Paolo, che dice di essere cresciuto proprio alla sua scuola. Bene, Gamaliel è un emblema di saggezza e di tolleranza. Saggezza perché richiama alla mente dei suoi ascoltatori due episodi accaduti nel primo secolo. A dire il vero, Luca raccontando questa scena fa un po' di pasticcio a livello temporale, perché racconta alcune cose che succedono dopo gli eventi veri e propri, però ecco, in un contesto narrativo di stampo teologico ci sta. Racconta di due rivolte dove la gente aveva dato grande credito ai fautori di questa rivolta, Teuda e Giuda, erano due rivolte che avevano di mira soprattutto il potere romano di scalzare il potere romano, che alla fine però si riducono in una bolla di sapone, in un nulla, anzi, causano un grosso spargimento di sangue. E Gamaliel dice agli altri, attenzione, se questa cosa viene dagli uomini scompare da sola, finirà nel sangue, non c'è niente da fare, ma se viene da Dio, attenzione, perché non è possibile imprigionare la vita che viene da Dio. La vita che viene da Dio la puoi imprigionare da un lato e spunta dall'altro, puoi soffocarla di là, spunta in un terzo posto. La vita che viene da Dio non può essere distrutta. E quindi conclude dicendo, non vi accada di trovarvi a lottare contro Dio, lasciatevi andare. Ecco, Gamaliel è qui la testimonianza di chi si rende conto che in questi uomini non passa un insegnamento, una dottrina, passa un'esperienza di vita con la V maiuscola, e questa esperienza di vita ha una esuberanza tale che riesce a suscitare tutta una serie di germogli. E il testo dice seguirono il suo consiglio, ma di fatto lo seguono solo fino a un certo punto, perché Gamaliel ha detto di lasciarli andare, invece loro li fanno percuotere, proibiscono ancora di parlare nel nome di Gesù e poi li rilasciano. E anche questo viene visto dal narratore come un elemento carico di vitalità. L'essere stati percossi fa sentire questi uomini sotto l'ombra misteriosa della croce, e la fecondità è subito annunciata, perché viene detto ogni giorno nel Tempio e di casa in casa annunciavano la buona notizia che Gesù è il Messia. E qui la fotografia della prima comunità cristiana è completa. perché è una comunità cristiana che non si ritrova più solo nel tempio, ma comincia già a fare quella transizione dal tempio alle case, che sarà la grande rivoluzione del cristianesimo delle origini, passare da un edificio sacro riservato ad alcune categorie di persone a un edificio laico, pubblico, aperto ad ogni genere di persone, che è la casa, la dimora. L'annuncio di vita del Vangelo non può essere chiuso negli ambienti sacri, ma le porte devono essere degli ambienti sacri, devono essere aperte non per accogliere la gente che entra, ma per far uscire la vita e portarla anche in tutti gli altri orizzonti. Allora, cari ascoltatori, penso, spero, che questi brevi cenni di commento al capitolo 5 degli Atti degli Apostoli ci aiutino un pochino a capire il fermento che abitava l'esperienza cristiana delle origini, un fermento che deve provocare anche ciascuno di noi. Nella figura di Pietro c'è una grossa provocazione per quelle che sono le guida delle comunità cristiane religiose, i pastori del popolo di Dio. Nell'esperienza sempre di annuncio degli apostoli c'è la provocazione per tutti i credenti. Ci viene detto ciò che caratterizza l'identità cristiana. Ciò che caratterizza l'identità cristiana non è una dottrina, ma un'esperienza di vita che chiede di prendere forma dentro di noi, ed è l'esperienza del Cristo, che si traduce in un annuncio che passa dal tempio all'esperienza di casa in casa, dove viene annunciata la buona notizia che Gesù è il Cristo, il primo e il Salvatore, come diceva appunto Pietro nella difesa di fronte alle classi sacerdotali. Ora lasciamo un altro spazio di silenzio prima di entrare nella seconda parte della nostra condivisione. Come dicevo all'inizio, la seconda parte della nostra riflessione è la parte dove voi siete protagonisti. Le vostre domande, le vostre brevi testimonianze, brevi riflessioni ci aiuteranno a continuare ad approfondire questo testo già molto ricco, questa testimonianza che l'Evangelista Luca lascia a ciascuno di noi. Lasciamo quindi uno spazio di stacco musicale dove la regia vi darà il numero per contattare la nostra trasmissione e poi sarò io ad ascoltare voi. Grazie. Pronto, buonasera, con chi parlo? Buonasera, il mio nome è Fabio. Sì. Ecco, volevo un chiarimento. Ho notato dalla lettura del brano degli Atti come ci fossero nelle prime comunità cristiane tantissimi miracoli, venivano portati malati e venivano guariti, poi gli apostoli venivano liberati prodigiosamente dalla loro prigione, dalla galera praticamente, dal carcere. Ecco, mi chiedevo, oggi non ci sono più tutti questi miracoli, ce ne saranno sicuramente, ma non sono più così numerosi, quindi si può desumere che dopo 2000 anni la forza dello Spirito Santo sia un po', come dire, indebolita? Grazie. Allora, grazie Fabio per la tua domanda. Allora, prima di tutto torno a sottolineare proprio l'aspetto che il nostro ascoltatore ci faceva notare, no? Fin dal versetto 12 ci viene detto che per mano degli apostoli avvenivano molti segni e prodigi. Ecco, l'espressione è duplice, avvenivano segni, semeia, kai terata, prodigi. L'aspetto dei terata sono gli eventi di miracolo, il miracolo vero e proprio. Segni invece sono qualcosa che invita a entrare in se stesso, che richiede il discernimento, che richiede di capire dove la situazione, dove la comunità deve andare. Non dobbiamo dimenticare l'unione di questi due elementi, perché segni e prodigi sono due elementi che assicurano il cammino della comunità cristiana. Ovviamente Luca tiene a sottolineare come gli apostoli rendono viva e operante l'azione di Cristo, cioè quei segni e quei prodigi riattualizzano tutto il ministero pubblico di Gesù, nei suoi segni e nei suoi miracoli. L'enfasi di Luca su questo aspetto serve per dire: Gesù non è un uomo morto, come dicono i sommi sacerdoti, ma è vivo e vive nell'esperienza di coloro che lo portano. Interpretato in questo modo, se noi apriamo gli occhi, possiamo dire che i due elementi, segni e prodigi, caratterizzano di fatto tutta la storia della Chiesa e caratterizzano anche il mondo contemporaneo in cui noi viviamo. Certo, se noi consideriamo come miracolo l'essere guariti dalle malattie, l'essere, non so, la persona che non cammina, che si alza improvvisamente in piedi o cose del genere, allora uno dice: ma come? Non si vedono più attorno queste cose. Però se noi apriamo gli occhi, noi siamo circondati da miracoli veri e propri, a parte il fatto che la cacciata degli spiriti immondi continua in diversi modi, in diverse forme, e da parte di gruppi o di persone che sono incaricate dalla Chiesa in tal senso, ma i miracoli operati dalla carità, i miracoli operati dalle conversioni, i miracoli operati da alcuni fondatori e fondatrici che mettono in moto nell'esperienza, nel tessuto del mondo contemporaneo, le energie dello spirito, guardate che se apriamo gli occhi sono enormi. Gli stessi movimenti ecclesiali che caratterizzano questa pagina della storia, la vitalità di alcune comunità religiose, la forza di alcuni fondatori. Pensate, settimana scorsa ho incontrato, sapete che io come servizio all'interno della mia congregazione ho il servizio della direzione editoriale della casa editrice delle Edizioni San Paolo, quindi è mio compito anche creare dei progetti editoriali. E la scorsa settimana ho incontrato un autore molto autorevole e significativo che sta costruendo insieme a noi una serie dedicata ai pazzi e alle pazze di Dio, che sono praticamente la figura di questi fondatori recenti che con la loro persona, la loro personalità eccentrica, la loro vitalità interiore, hanno fatto delle cose che hanno lasciato a bocca aperta. E alcuni di loro, chiaro, ci si sofferma magari su quelli che sono già scomparsi, recentemente anche scomparsi, ma ne abbiamo anche di viventi attorno a noi, che operano veramente miracoli, miracoli di conversione, miracoli di rilancio nella vita quotidiana, miracoli di fede. Questi sono segni e prodigi. E poi tra i segni, penso che anche qua ce ne sono tantissimi. Basta anche solo pensare a questa presenza quotidiana di Maria accanto a noi, da Medjugorje ad altre esperienze, e questo è un segno che non ci può non far riflettere, no? Oppure segni legati anche ad alcuni fatti che stanno succedendo attorno a noi e sulle quali Papa Francesco, come il nuovo Pietro, cerca di aprire i nostri occhi e dire: attenzione, apriamo gli occhi, impariamo a leggere la storia. Questi sono segni e prodigi che avvengono tra il popolo e che ci testimoniano che Cristo è vivo in mezzo a noi, anche oggi. Ovviamente Luca, quando ha narrato questa pagina degli Atti degli Apostoli, aveva una preoccupazione teologica, che era quella di far capire al lettore che Gesù era vivo nei suoi apostoli, quindi magari da quell'enfasi ulteriore che sembra concentrare tutto in un gruppo ristretto di persone. Oggi la nostra prospettiva è molto più a 360 gradi, deve abbracciare il mondo intero. Grazie Fabio per la tua domanda. Pronto? Pronto? Sì, con chi parlo? Io sono Franco. Franco? Da, Sì, vengo da Figino Serenza, provincia di Como. Bene. Ecco, creda, mi sembra che Pietro abbia la figura di Mosè, perché in effetti quello che ha fatto Mosè, quando Mosè è stato sulla montagna per 40 giorni, ha sceso, insomma, con i 10 comandamenti, e c'era tutto il popolo che non lo credeva. Ecco, mi sembra che Pietro in questo momento, lì dove c'era, insomma, che faceva i miracoli di fronte al popolo, ai sacerdoti, tutte queste cose qua, e i sacerdoti lo combattevano, l'hanno preso e l'hanno messo in prigione, ma però con la forza suprema di Dio, mandando il suo angelo, l'hanno liberati, e adesso è loro, sono nell'attualità presenti in mezzo a noi, specialmente il nostro Signore Gesù Cristo, che vive in mezzo a noi e vive nell'Eucaristia, e quindi noi lo dobbiamo testimoniare della sua presenza vivendo in mezzo a noi, della sua vittoria sul peccato e sulla morte. Ecco, la ringrazio Franco per il suo intervento. Invito gli ascoltatori, quando chiamano, ad abbassare il volume della radio, altrimenti è difficile per gli altri ascoltatori, ecco, sentire le vostre domande. Ora, Franco, nel tuo intervento tu hai sottolineato proprio un aspetto importante, perché Luca ha proprio questa caratteristica. Quando negli Atti degli Apostoli presenta la figura di Pietro, sembra, alcuni esegeti hanno cercato di approfondire questo aspetto, però mi sembra di poter essere d'accordo proprio con loro, sembra che in filigrana ci sia proprio la figura di Mosè. Da tanti punti di vista. Oggi abbiamo visto come alcuni elementi evocavano ad esempio quel senso di timore dell'elevarsi i sandali davanti al mistero di Dio, oppure l'ombra di Pietro, sotto la quale tanti vogliono mettere i loro malati, evoca la nube luminosa che accompagnava il popolo nel deserto, ma non dimentichiamo, Pietro viene sempre presentato da Luca anche nei suoi tratti di fragilità, è colui che ha rinnegato, che però viene, come dire, portato comunque sempre nelle mani del Signore per la sua capacità di stare con lui. Ugualmente Mosè ha tutta un'esperienza di conversione dietro, addirittura gli Atti degli Apostoli, che dedicano a questa figura uno spazio non indifferente, lo vedremo nel discorso che Stefano farà a coloro che poi lo condanneranno alla lapidazione. La vita di Mosè viene suddivisa in tre grandi momenti: c'è il momento in Egitto, il momento della fuga, i 40 anni di fuga, e poi c'è l'ultimo periodo dei 40 anni, che è il periodo della guida del popolo. Ugualmente potremmo suddividere così la vita di Pietro: da pescatore, quindi un pescatore di pesci insieme all'azienda familiare, a discepolo di Gesù, con le due fasi dell'entusiasmo e del rinnegamento, e poi guida della comunità. Un altro elemento di parallelismo tra Pietro e Mosè è un po' la finale. Mosè non entra nella terra promessa, si deve far da parte sul monte Nebo, scomparendo quasi, perché il popolo possa entrare dopo di lui, e anche il destino di Pietro viene subito annunciato come colui che lentamente deve scomparire, lasciarsi condurre, dirà Giovanni, dove tu non vuoi, per far entrare altri. Quindi notiamo che anche Pietro negli Atti degli Apostoli, pur guidando la Chiesa delle origini, lui è il primo punto di riferimento della Chiesa di Gerusalemme, ma presto, a motivo delle persecuzioni, dovrà farsi da parte e cedere la guida della comunità a un'altra figura, che forse sarà anche una figura che magari in alcuni momenti richiederà la sua mediazione, però è un'altra figura e dovrà cedere il posto proprio all'azione dello Spirito. Ecco, quello che è interessante nella lettura che fanno gli Atti degli Apostoli è proprio notare come dietro i grandi apostoli, quindi Pietro, Giovanni, Paolo, Barnaba, dietro i grandi apostoli Luca tiene a far emergere l'azione dello Spirito, l'azione di Dio, l'azione di Cristo, del risorto. Gli apostoli sono, in un certo senso, vengono sempre messi in secondo piano. In primo piano c'è l'azione del Cristo in loro, l'azione forte dello Spirito. E questo è il parallelismo più grosso con la figura antico-testamentaria di Mosè. Grazie Franco per la tua riflessione. Pronto? Buonasera, sono Maria. Buonasera. Spunto, siamo da Latina. Mi dica. Allora, io volevo dire due cose, ma sarò velocissima. Allora, una cosa riguarda quello che lei ha appena specificato, diciamo della lettura che ha letto, nel senso che la dottrina, se non è accompagnata da un'esperienza di Cristo vivo, diciamo muore piano piano. E io ho notato che spesso, io sto per fare l'esperienza del catechismo, e penso che molti ragazzi, dopo fatta la cresima, comunque si perdono, tanti se ne perdono, qualcuno rimane, ma tanti se ne perdono perché forse si fa molta dottrina, ma non si fa vivere quell'ora di catechismo, non si vive magari insieme a Cristo, cosa che comunque un catechista ha il dovere di fare nel momento in cui lui stesso ha fatto questa esperienza, perché solo rendendo il ragazzo dipendente dalla compagnia di Cristo, penso io si possa creare questo legame che poi lo Spirito Santo rende indissolubile, e quindi il ragazzo a una certa età sa dire sì o no in maniera consapevole alle esperienze che poi questa società che li mette sotto pressione gli offre. Questa è una mia riflessione. E poi un'altra cosa, probabilmente all'epoca c'era più bisogno di miracoli, perché comunque Cristo era appena passato. Noi adesso abbiamo tantissimi esempi, abbiamo i santi, tantissimi, abbiamo Maria, tanti intercessori che tramite lo Spirito Santo lasciano segni veramente forti. E poi ricordiamoci che noi dobbiamo essere quei beati che crederanno pur non avendo visto, perché tanto Cristo si fa sentire in ogni situazione. Questa è la mia riflessione. Comunque grazie per la spiegazione della lettura. Grazie Maria Assunta per il tuo intervento. Nel tuo intervento traspare uno dei messaggi forti, no, del brano che abbiamo commentato questa sera, che è quello della vita. Noi abbiamo commentato il momento in cui l'angelo libera gli apostoli dal carcere e dice: annunciate al popolo nel Tempio tutto ciò che concerne questa vita, questa vita. E poi hai fatto una riflessione sul tema della catechesi. Vorrei riprendere questo aspetto perché effettivamente Maria Assunta ci ha provocato su un elemento che è una grande opportunità, ma può essere anche una, come dire, un limite delle nostre comunità, è quello di vivere l'esperienza della catechesi come esclusivamente la trasmissione di una dottrina e non invece come la condivisione di una vita, il far germogliare una vita. E allora, veramente oggi le nostre comunità cristiane dovrebbero lasciarsi provocare di più dagli orientamenti stessi che vengono dalla Chiesa italiana, solo che a volte si vede che le comunità cristiane locali sono un po' in affanno a metterli in atto, per cui se uno va in una parrocchia, fra virgolette, comune, cosa succede? Succede che spesso si ritrova a vedere che il catechismo, la catechesi è un'ora di lezione dove dei ragazzi devono imparare delle nozioni e al massimo devono colorare o scrivere qualcosa. Ora questa cosa qua non è catechesi, questo è l'insegnamento di una dottrina. Ma l'esperienza cristiana non può ridursi all'insegnamento di una dottrina, è troppo poco. Ed è chiaro che una cosa del genere si depone nella testa dei nostri ragazzi, ma prima, alla prima occasione, quando è finito un certo percorso, viene abbandonata. Poi il Signore si serve anche della buona volontà di catechisti che usano questo metodo, però è troppo poco, è troppo povero. Allora, come far sì che l'esperienza di catechesi diventi vita? Non bisogna lasciar mancare le nozioni, ovvio che le nozioni fanno parte della trasmissione di una sapienza, però bisogna mettere in contatto questi ragazzi con un'esperienza. E allora quando io spiego la messa, non mi limito a star seduto nella classe di catechesi per spiegare l'Eucaristia o la messa, ma ad esempio entro nella comunità parrocchiale e cerco di spiegare i diversi ambienti dell'ambiente liturgico, quindi il significato di un ambone, il significato di un altare, il significato di un vaso di fiori, come dovrebbe essere, vissuta l'esperienza dell'Eucaristia, perché c'è un certo ritmo, poi cercarla di vivere bene in un certo modo durante la celebrazione domenicale. Ugualmente fa parte dell'esperienza di catechesi l'incontro con alcune realtà locali. Non c'è parrocchia che non abbia un gruppo della Caritas o una comunità religiosa al suo interno. Allora incontrare queste esperienze e dire: ma cosa vuol dire questa tua presenza qui? Cosa vuol dire questo movimento qui? Cosa mi comunica questa cosa qui? E allora l'incontro con testimonianze. Oppure, altra modalità di esperienza, è l'approccio critico ad alcune esperienze, ad esempio la figura di San Francesco. San Francesco è una delle figure più amate da noi in Italia, no? Vedere due o tre film che declinano la vita di Francesco e guardarli con un occhio critico, cosa mette in evidenza questo e cosa trascura, voi cosa dite? E aiutare questi ragazzi ad avere un approccio critico anche a ciò che viene trasmesso, oppure vedere come una notizia che ci interpella da un punto di vista sociale, pensiamo a queste pagine dolorose degli immigrati, no? che giungono in Italia in ricerca di vita e perdono la loro vita, come i diversi giornali riportano la medesima notizia, lasciando passare una certa visione dell'uomo. E allora, quale visione dell'uomo è più vicina alla nostra esperienza cristiana, all'esperienza che ci ha dato Gesù? È più vicino quel giornale o quell'altro, quella testata o quell'altra? E interpellare, cioè trasformare l'esperienza della catechesi non in un'ora di lezione, e anche qua cercare di sganciare da quell'ora fatta tutti i giorni, tutte le settimane, nello stesso modo, ma mettere in moto un meccanismo diverso, dove una volta si è insieme nell'aula di catechismo, un'altra volta c'è un'esperienza di incontro, un'altra volta una lettura critica di una realtà e così via, cioè creare e fare della catechesi qualcosa di che sia la trasmissione di una vita. E allora siamo in sintonia, a mio avviso, posso sbagliare, ma siamo in sintonia con una modalità di annuncio che caratterizzava la prima comunità cristiana. Ovvio che poi con l'andare del tempo anche la comunità cristiana si è data una norma, una regola, una struttura, ma attenzione a non far diventare a volte la struttura più importante dell'esperienza che dovrebbe custodire. Nostro obiettivo, l'obiettivo anche dello spirito dentro di noi, è che l'esperienza del Cristo sia sempre un'esperienza viva, non un'esperienza subita o da sbadiglio, perché allora lì si viene a perdere quella che è la nervatura essenziale della trasmissione cristiana. Grazie Maria Assunta per quanto ci hai detto. Pronto? Con chi parlo? Sì, pronto, buonasera, sono Filippo di Roma. Buonasera. Buonasera. Qualche tempo fa, durante una preparazione della celebrazione della parola, dalla frase che in Esodo 33 Dio dice a Mosè: nessuno può vedere Dio e restare vivo, lì diciamo così che lo Spirito mi ha suggerito che stesse già parlando della morte, cioè di una morte che, del battesimo in particolare, quindi stesse già parlando della possibilità per l'uomo di essere battezzato, quindi di morire, no? A se stesso, facendo morire l'uomo vecchio. e far dar posto all'uomo nuovo. In questo modo è possibile vedere Dio, e questa cosa io l'ho lasciata un po' così per un po' di tempo. Poi invece ho notato, dopo varie altre celebrazioni, che questo è confermato dalla scrittura, in particolare anche da Cristo stesso, ma ci sono vari passi che conferma questa cosa, per esempio quando Cristo dice: mi faccio battezzare anch'io perché si compiono le scritture, ma non solo quello, anche altre cose. Mi è capitato anche poi di confrontarmi con Elia, un fratello ebreo che sta, c'è una sinagoga vicino dove faccio il cammino io, e così anche io ho detto, io ho raccontato come sono andate le cose, eccetera, che è rimasto molto contento di questa interpretazione, che è anche molto bella, eccetera, anche con vari altri sacerdoti della mia parrocchia, ho parlato un po' di questa cosa. E niente, diciamo così, è stata abbastanza più o meno condivisa sia da, appunto, dalla comunità ebraica, eccetera, questo fatto che nessuno può vedere Dio e restare di qui, nel senso si deve attuare una morte in noi per vedere Dio, eccetera. E volevo così sapere anche lei che ne pensava di questa cosa, tutto qua. Grazie Filippo per la tua domanda e anche la tua condivisione. Il brano a cui tu fai riferimento è proprio il brano di Esodo 33, dal 18 in poi. Lo leggo per i nostri ascoltatori in modo che abbiano presente la scena, no? E Mosè disse a Dio: mostrami la tua gloria. Rispose Dio: farò passare davanti a te tutta la mia bontà. Proclamerò il mio nome, Signore, davanti a te. A chi vorrò far grazia, farò grazia. Di chi vorrò aver misericordia, avrò misericordia. Soggiunse: ma tu non potrai vedere il mio volto, perché nessun uomo può vedermi e restare vivo. Ecco. Come interpretare questo passaggio? Allora, sappiamo che nell'Esodo la figura di Mosè viene presentata come la figura di una persona che è molto vicina a Dio. Addirittura in un altro passaggio, nel momento della morte di Mosè, Mosè viene descritto come colui con cui Dio parlava faccia a faccia, sembra quasi in contraddizione con questo, no? Cioè dove uno stava di fronte all'altro, quasi allo stesso livello, per cui all'interno di questa esperienza Mosè sembra quasi, come dire, chiedere a Dio: mostrami la tua identità in pienezza. E Dio dice: io ti posso mostrare la mia bontà, posso proclamare la mia signoria sul mondo attraverso dei miracoli e dei prodigi, posso cantare la mia misericordia, ma il mio volto non lo puoi vedere. Normalmente l'interpretazione di questo è: il mio volto non lo puoi vedere, perché vedere il volto di una persona significa essere in qualche modo proprietari del suo mistero, proprietari del suo volto. È una, come dire, un'attualizzazione concreta di questo è il significato che viene dato in alcune culture, soprattutto di ambito islamico, alla velatura delle donne, no? Perché in alcune culture le donne non mostrano il volto, perché mostrare il volto significa, come dire, offrire qualcosa di bello a qualcun altro. Ora, la donna sposata invece è considerata da queste culture proprietà del marito, quindi non può mostrare il suo volto agli altri. Ecco, un pochino questo concetto è quello che sta dietro a questo brano, cioè vedere il volto di Dio significa averne in qualche modo il possesso, invece di Dio non si può mai avere il possesso, bisogna solo essere alla scuola della sua bontà, della sua misericordia, della sua signoria, e saranno queste, passo dopo passo, a rivelarci chi è Dio. Poi certo si può fare anche la lettura molto bella, molto significativa che tu, Filippo, hai fatto. Come dire, vedere il volto di Dio bisogna morire, bisogna rinunciare al nostro io e lasciarci, come dire, riempire, illuminare da Lui. È sicuramente una lettura complementare di questo testo. Aggiungo un'ultima cosa. In genere, di fronte ai passi della scrittura, come dicevano bene i rabbini ebrei, a cui tu stesso hai chiesto anche un parere su questo brano, di fronte a un testo le possibilità di interpretazioni sono non migliaia, ma miriadi. La pienezza di un testo noi la potremo avere solo quando avremo la capacità di mettere insieme le interpretazioni più varie e più diverse. Allora lì riusciremo a penetrare il senso di un testo. Questo per dire che cosa? Che non c'è una interpretazione che prevale sulle altre. Ogni interpretazione è sempre parziale, anche quella pronunciata dall'esegeta più bravo di questo mondo. Ogni interpretazione invece si arricchisce quando riesce a far spazio, a far accoglienza ad altre letture che lo Spirito ha suggerito. E penso che la tua, Filippo, sia una di queste letture che arricchisce molto quello che gli esegesti sul brano ci hanno detto. Grazie per la tua testimonianza. Pronto? Pronto, buonasera. Mi chiamo Cesare, chiamo dalla Calabria. Sì. Bene, allora, io sì, allora io riguardo ai messaggi di Medjugorje ho un'opinione, perché hanno una solidità confermata sempre dai fatti storici e dal Vangelo comunque, no? Per cui anche in un messaggio la Madonnina disse che ogni sacerdote può, tra i tanti messaggi, in uno di questi disse: ogni sacerdote ha il dono della guarigione. Per risvegliarlo deve pregare di più e avere più fede. Quindi il discorso sullo Spirito Santo se ha una debolezza, è forse l'unica debolezza che ha lo Spirito Santo è lo spazio che gli diamo come cristiani e come sacerdoti, potrebbe essere questa l'interpretazione, ed è sempre confermata dal Vangelo, perché il Signore disse agli Apostoli: dei prodigi che ho fatto io, voi ne farete di più grandi. In quel momento c'è un passo nel Vangelo in cui ognuno toccava Gesù, e una sola di quelle persone disse: se riesco a toccarlo, guarisco. E per quella fede quella signora guarì. E dici: valtati e va, la tua fede ti ha salvato. Uno mi ha toccato, non tutti, uno. Adesso, quando Pietro si liberò dalle prigioni, c'era un particolare, che è una preghiera incessante. Saliva da tutta la comunità, e quando sale la preghiera incessante gli effetti si vedono, ma succede anche oggi. Dalle parole di Obama non andiamo tanto lontano, le parole di Obama dissero che quella preghiera fatta bloccò una guerra in Siria già per cui erano già stati spesi soldi per muovere le varie forze armate, tutto quanto, quindi era già certa la guerra. Ed è stata bloccata da una preghiera incessante salita da tutti i cristiani, mossa dal Papa. Quindi che cosa si è indebolito, se è vero? Perché poi ci sono dei sacerdoti in cui pregano di più, hanno più fede, e i carismi di guarigione, io ne vedo a tante altre gente, no? Insomma, basta cercare, se ne vedono forse anche un po' di più. Però l'unica debolezza che potrebbe essere data allo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo, in quanto terza persona, è anche esso onnipotente, non ha una debolezza, è lo spazio che gli diamo con la nostra libertà di pregare di più o di avere più fede, cristiano o sacerdote che sia. Grazie Cesare per il tuo intervento, un intervento in cui ci hai aiutato a ulteriormente approfondire quell'aspetto che abbiamo commentato, dei segni e prodigi che avvenivano attraverso gli apostoli, facendo anche qualche applicazione concreta al nostro oggi. Aggiungo solo una cosa: non pensiamo alla vitalità dello spirito legata solo a un unico carisma, cioè il carisma di fare guarigioni è un carisma, però è uno tra tanti. I carismi portati dallo Spirito Santo sono diversi, e sappiamo che il carisma di fare le guarigioni non è nemmeno quello al primo posto, cioè l'invito che ci viene dagli Atti degli Apostoli è anche quello di sapere, contemplare una vasta gamma di azioni che lo Spirito produce dentro di noi, attorno a noi, e non a caso il testo sottolinea che avvenivano prodigi ma anche molti segni, e questi segni sono eventi, fatti che richiedono un carisma particolare, che è il carisma del discernimento, cioè discernere dove Dio vuole portare la storia. E anche questo è un dono particolare che lo Spirito fa. E nel testo che abbiamo letto oggi, a un certo punto, di fronte all'azione degli Apostoli, quello che lo Spirito suscita, grazie alla loro azione, nella durezza dei sommi sacerdoti e delle autorità del Tempio, è proprio quello. Si chiedevano perplessi tra loro cosa significasse tutto ciò. L'azione di, il dono di suscitare la domanda, questo a volte è il più grande miracolo che può avvenire, perché scalfisce quelle sicurezze che chiudono la durezza del cuore. E allora attenzione a, come dire, a vedere l'azione dello Spirito concentrata in un unico carisma, quando sappiamo che i carismi portati dallo Spirito sono molteplici e di varia natura. E quello appunto di operare guarigioni o miracoli non è, come dire, superiore agli altri, ma c'è una gamma variopinta di azioni che lo Spirito produce nei credenti. Grazie Cesare per il tuo intervento. Pronto? Pronto, sono Lucia, chiamo dalla Calabria. Mi dica Lucia, la seconda della Calabria, bene. Volevo dire che quando preghiamo, parliamo con Gesù, con lo Spirito Santo proprio, no? E lo chiamiamo in qualsiasi posto siamo, cioè lui ci ascolta, cioè chi lo chiama veramente sente la vicinanza dello Spirito Santo, cioè per quanto mi riguarda la mia esperienza. E poi per quanto riguarda i messaggi di Medjugorje sono bellissimi e la Madonna ci chiede soltanto di pregare e non ci chiede niente, quindi a noi non costa niente pregare. Penso. Grazie Lucia per il suo intervento. Grazie a Dio lo Spirito Santo non ha problemi di velocità, di spazio o di tempo, ma ci raggiunge e ci avvolge sempre, suscitando in noi i desideri di bene. Lei dice la Madonna ci chiede solo di pregare, ma guardate che la preghiera, quando è fatta bene, è pericolosa, molto pericolosa, molto pericolosa. Ecco perché lo spirito nemico cerca il più possibile di distoglierci dalla preghiera, perché la preghiera quando è fatta bene mette il fuoco dentro il cuore, e il fuoco scomoda, ci mette in cammino, ci rende profeti nel senso di persone scomode, e innesta una serie di dinamismi concreti che sono ben lungi dall'essere, come dire, raccolti in un banco da qualche parte a dire qualche giaculatoria, molto di più. La preghiera fatta con autenticità mette realmente in moto la vita nella storia. Grazie Lucia per il tuo intervento. Allora io vorrei chiudere questa nostra trasmissione questa sera affidando a voi ascoltatori una piccola iniziativa. È un'iniziativa che la mia famiglia religiosa sta vivendo, la mia famiglia religiosa, la famiglia Paolina, fondata dal Beato Giacomo Alberione, sta vivendo i 100 anni dalla nascita, e per ringraziare il Signore di questi 100 anni di storia, abbiamo avviato l'iniziativa delle 100 piazze per il Vangelo. Stiamo visitando diverse piazze italiane, portando in ogni piazza un annuncio del Vangelo attraverso una testimonianza di vita, uno spettacolo e un momento di preghiera intenso. Pensate, sabato e domenica ero a Città di Castello, in Umbria, e davanti alla cittadinanza intera che viveva anche il suo momento laico di festa nella Stracastello, nella festa delle famiglie, è stato dato veramente un annuncio della parola di Dio, carico di vita, di testimonianza, di luminosità. Ecco, chiedo a voi ascoltatori un piccolo ricordo in questo, perché in questa nostra esperienza, in questo giro delle 100 piazze d'Italia, veramente la parola possa correre con tutta la vita che custodisce in sé, che non venga sbiadita dalle nostre mezze misure, dalla nostra mediocrità, ma sia sempre colei che ci renda forti, dinamici, vivi. Ecco, ringrazio ciascuno di voi, quanti hanno partecipato con le loro domande, come Fabio, Franco, Maria Assunta, Filippo, Cesare e Lucia, e ringrazio quanti con il loro ascolto e con la loro offerta hanno arricchito questa nostra riflessione. Una benedizione a tutti voi, ci risentiamo tra un mese. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.